Peccato che finisca in maniera così abrupt, come si dice abrupt in italiano, non mi ricordo. E mentre invece oggi addirittura abbiamo anche il momento delle dediche e richieste. Ciao, buongiorno. Ascoltami, io comunque adesso gettonerei un buon Stefano Bollani, perché lui di recente ha reinterpretato la colonna sonora del film Jesus Christ Superstar del 1973 in versione jazz. Si chiama Piano Variations of Jesus Christ Superstar. E sono 17 soli jazz. Promuoverei il suo impegno perché è un grande. Io partirei con un Stefano Bollani e poi un po' di rock. Ciao! Oltre a questo, la nostra fantastica Chiara Pergola, che ormai ci sta prendendo gusto, ha deciso di mandare un altro contributo proprio per specificare alcune cose che rispetto a Norese non aveva specificato. Sentiamola. Beh, che dire, grazie, e grazie anche per avermi fatto conoscere Fulvio Abate, di cui non sapevo praticamente una benemerita cippa, e l'ho trovato molto interessante. E, tra l'altro, ho elaborato così all'impronta una piccola teoria. Secondo me, questa cosa degli haters di Fulvio Abate e anche di Pino Boresta, che in qualche modo associerei in effetti al personaggio, è che loro con la loro ricerca toccano lo sgradevole, quindi forse sgradevole è anche parte del loro pubblico. Poi ho trovato molto interessante questa cosa su Michele Serra, che non sapevo, è sconvolgente, eau de moi, qualcosa di completamente imbarazzante. Tra l'altro, forse non lo sapete, ma c'è un altro profumo che forse è ancora più imbarazzante, ma non essendo di Michele Serra non so, forse è più imbarazzante eau de moi. Beh, questo profumo si chiama Stercus e c'è chi lo usa. Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. Dovete poi anche sapere che in questi giorni molti di noi del settore dell'arte contemporanea in realtà stiamo cercando di elaborare il lutto, non solo il lutto della morte di Germano Celant, forse ne avrete sentito parlare. Germano Celant era probabilmente il curatore più importante, famoso a livello internazionale che l'Italia abbia avuto. È stato colui che negli anni 60, nel 67 per di precisione, se non sbaglio, certo andare di precisione senza averne la certezza Vabbè, è tipico di me. Comunque, nel 67, dicevamo, è stato colui che ha inventato il termine arte povera, catapultando, diciamo, in maniera abbastanza veloce e funzionale questo gruppo di artisti, che poi di fatto non erano proprio un gruppo di artisti, ma che lui aveva messo insieme per appunto rappresentare una tipologia di arte contemporanea che aveva scavalcato le sembianze, soprattutto la potenza americana di quel periodo, no? della pop art, del New Dada, eccetera, eccetera. E l'arte povera, appunto, non solo fa tornare l'Italia agli splendori passati, ma racconta appunto quanto la ricerca artistica fosse in quel momento importante. E dunque, perché gli addetti all'arte contemporanea in questi giorni stanno elaborando il lutto? Perché si sono accorti che non contano più niente, ovvero muore Celant e nessun telegiornale lo racconta, cioè muore il curatore, una delle persone più importanti del mondo dell'arte italiana, e non c'è nessun telegiornale che lo racconta. Repubblica ha scritto su Repubblica era in prima pagina del portale, in fondo, il Corriere della Sera ha scritto due righe il giorno stesso, il giorno dopo ha fatto un grande editoriale, ma diciamo che siamo rimasti tutti piuttosto sorpresi dalla mancanza di notizia rispetto, per esempio, a un Sepulveda. Naturalmente siamo altrettanto dispiaciuti della morte di Celant, che appunto, ricordiamolo, a 80 anni è morto di Covid, e tanto quanto siamo stati dispiaciuti da Sepulveda, ma sicuramente per me, che sono un artista, vedere quanto l'arte contemporanea sia completamente ignorata in questo paese è piuttosto svilente. Shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things. We'll be right back. Naturalmente tutto questo si unisce alla problematicità del fatto che tutte le gallerie, tutte le mostre, tutti i musei sono chiusi, anche se adesso dal 18 maggio si presume che appunto piano piano ci sarà una riapertura degli spazi espositivi, degli spazi museali, eccetera, togliendo naturalmente tutto quello che è una grande parte del mondo dell'arte, ovvero le inaugurazioni, l'esserci per forza, eccetera. La speranza che qualcosa migliori anche in questo campo, il fatto appunto di non doverci più essere all'inaugurazione per mostrarsi, eccetera, sicuramente c'è, ma con alcuni addetti dell'arte effettivamente stavo chiacchierando negli scorsi giorni o chattando virtualmente, eccetera, e ci siamo detti che negli ultimi 20 anni l'arte italiana veramente ha guardato solo al proprio orticello e soprattutto gli operatori del settore hanno solo guardato a quello che interessava a loro, soprattutto a livello economico, ma non solo, anche a livello di ego, e questo ha fatto sì che non ci sia una comunità come sapete, l'unione fa la forza e non ci sia neanche la forza per fare vedere che esistiamo. Ed effettivamente questa mancanza di presenza della notizia della morte di Germano Celant ce l'ha sottolineato veramente in maniera forte, in maniera potente. Io credo che gli artisti italiani debbano approfittare di questo momento di fermo per pensare a loro stessi e a dove stiamo andando, non solo dove la nostra arte sta andando o dove non sta andando, ma anche a pensare proprio agli artisti come un tutt'uno che potrebbero veramente tentare di cambiare un po' le cose o perlomeno di farsi sentire. In questo momento noi siamo completamente muti, anche se alcuni piccoli segnali ci sono, per esempio il Forum dell'Arte Contemporanea di cui io faccio parte sta appunto intavolando un forum online che tratterà anche di queste tematiche, cioè soprattutto delle tematiche economiche, diciamo delle problematiche economiche legate a una chiusura del mondo dell'arte o anche a una riapertura del mondo dell'arte nei prossimi mesi, ma non solo, cioè non è tanto. In realtà dovremmo veramente cominciare a pensare ad un nuovo modo di fare arte per tornare a parlare col pubblico, perché effettivamente questo sta succedendo, che ce la cantiamo e ce la suoniamo. I don't believe in love, I told you many times before, so I just in the tower, but you still can't seem to let me go. I don't believe in love, I told you many times before, but you always come back for me. And now you're feeling restless, 'cause I'm moving on. And I wouldn't mind to tell you, it's not 'cause you did something wrong. Wouldn't mind to tell you. When you wake up in the morning, do you think of me? When you go to bed, am I the only thing you see? Ciao, siamo Lady Fingers e questo è Coxo Spaziale. Coxo Spaziale! Oh, dancing, sir. Begging you, I'm dancing, sir. Can I deal? No, can I deal? So if y'all keep on doing what you all have to do, you will end up, up, up in jail. Skylarking, skylarking. Begging you a dancing, sir. Can I deal? No, can I deal? So if y'all keep on doing what you all are doing, you will end up, up, up in jail. So if y'all keep on doing what you fantastica Skylarking featuring Horace Andy di Inna the Yard, che ci ha spedito naturalmente come al solito la Boom Rush Promotion. Dicevo, fa parte di un EP che sta per uscire, Rare Bonus Tracks, che uscirà, e questo singolo uscirà il 22 maggio, per cui sappiate che l'avete sentito prima da Coxo Spaziale. Mentre invece la fantastica Francesca Grispello di Simpress 44 questa settimana ci delizia con l'uscita del nuovo disco di Beppe Gambetta, che si intitola Where the Wind Blows, dove tia o vento. Io adesso non ho alcuna idea di come sia il dialetto genovese. Dice: non è solo il doppio titolo inglese-genovese ad alludere al rinnovamento, è l'intera operazione uscita in un momento di difficoltà per l'intero panorama dello spettacolo e non solo per i musicisti, grazie, a far emergere la profonda novità. 10 canzoni in cui Beppe Gambetta si scopre e riscopre songwriter, cantante, chitarrista elettrico. Succede spesso che l'artista scopra le proprie risorse e la propria espressione artistica strada facendo. A volte si scopre una propria dote per caso, altre volte questo deriva dall'esigenza di produrre bellezza con i pochi mezzi del mondo indipendente, come nei piccoli circhi dove il bigliettaio fa anche il clown e il domatore di coccodrilli vende lo zucchero filato nell'intervallo. È bella questa cosa, perché effettivamente una volta a Zola Predosa sono andato a vedere un circo con mia figlia piccolina e c'era la bigliettaia che a un certo punto ha fatto il numero sulla fune. Il mio percorso è iniziato come chitarrista acustico innamorato della musica americana. Con il tempo sono nati il viaggiatore, il ricercatore, il cantante, l'arrangiatore, il tecnico del suono, il produttore di spettacoli, l'insegnante e oggi il chitarrista elettrico e il cantautore. Fino ad ora provavo una forma di pudore e riservatezza, scrive lui naturalmente, Beppe Gambetta, che mi impediva di scrivere canzoni. Con questo lavoro sono riuscito a superarla e ora aspetto il giudizio di chi mi vuol bene, di chi vuol bene alla mia musica, per decidere se potrò continuare anche in questa direzione. Io apprezzo questa volontà di onestà di Beppe Gambetta e dunque ci andiamo ad ascoltare la musica nostra dall'LP, appunto, Where the Wind Blows, dove tia o vento. Sarà pieno, che rumore strano il freno, forse basta andare piano. Pubblicità ne fanno, han pagato dopo un anno, ma che bello, siete artisti, ce l'avete visti. Festival d'agosto non risponde ancora a niente, gli scriviamo ancora. Hai preso il passaporto? Dammi un bacio. Andiamo a salutare. Che mal di schiena. Amore mio, vorrei che non finisse, che la strada continuasse all'infinito con te. E anche la musica dei padri, la musica vera. Musica nostra. Fermarsi, sai, quel palazzo antico, niente male, ma un centro commerciale. Il suono non va bene, bisogna equalizzare. I'm from Genova, the beautiful city you should visit. Wir sind Musiker, wir haben nur unsere Instrumente mitgebracht. Giornalisti, musicisti, pubblicisti, manifesti, mailinglisti, ibuprofene, locandine, corbe vecchie, bevi poco, cambia l'olio, master nuovo, poi la gente, tanta gente, poi soli, soli io e te. Amore mio, vorrei che non finisse, che la strada continuasse all'infinito con te e anche la musica dei padri. La musica vera per gli altri, la musica nostra. La musica nostra. La musica nostra. Thank you. Coxo risponde. Fedra, siamo arrivati alla 310ª puntata di Coxo Spaziale. Come stai? E cosa stai facendo? E soprattutto, sei pronta per una riapertura? Caro Stefano, innanzitutto devo ringraziarti tantissimo per tutto il lavoro che hai fatto in solitaria in questi bui mesi di lockdown totale, e che, perché io bloccata qua, non sono stata molto bloccata qui a nord, sono stata impossibilitata dal partecipare, perciò Ave Pasquini, grande, super coxo, super W, super più. Poi come senti, la voce non è quella classica del che bello il 310° coxo, ho detto bene il numero? Perché di fatto sai com'è, sono bloccata qua da fine febbraio di fatto, e come dire, oggi sono andata in farmacia con l'infradito perché ho solo scarpe invernali e qui fa un caldo porco, non ti dico il resto del guardaroba. Quindi pronta a ripartire? Ma ci fanno ripartire per davvero? E qua mi mordo la lingua perché il coxo è politically correct, non lo so, comunque ci sono tante cose che è meglio non dire con la passione del momento e lasciare lì a sedimentare e morigerare, ecco. E tu invece cosa stai facendo? Com'è Bologna di questi tempi? La gente, c'è voglia di ripartenza anche tra le persone? O sono tutti ancora asserragliati ad aver paura di prendere questo virus dall'aria, dal vento e dalle fronde erbose? A Bologna la gente è sempre la stessa, infatti la cosa che stavo dicendo prima in trasmissione era proprio questo, che secondo me le cose non cambieranno tanto una volta che è passato questo Covid. La voglia di ricominciare sicuramente c'è, soprattutto appunto c'è la voglia di andarsene un po' in giro senza aver la paranoia di avere uno sbirro che ti fa 500 euro di multa. A parte questo, io faccio didattica online, cerco di continuare a fare arte come al solito e sicuramente ho meno problemi che non voi teatranti. Infatti la volta scorsa ho chiesto alla fantastica Irma Ridolfini come stava andando, anche lei naturalmente, come vedo poi dagli appelli delle persone dello spettacolo, racconta questa invisibilità del mondo dello spettacolo, che fra l'altro infatti ha anche fatto in un post di Facebook in questi giorni. E così insomma anche il mondo dell'arte sta soffrendo tantissimo, infatti ci stiamo organizzando per cercare un dialogo col governo, dico ci nel senso il Forum dell'Arte Contemporanea, ma non solo, c'è anche questa Artworkers Italia che sta lavorando, e insomma vedremo quello che succede. Tu nel frattempo magari, non lo so, ci vuoi almeno dare una canzone da ascoltare da parte tua? Oh sacro Pasquini, che mi rinomini la Irma, che cose meravigliose, che ricordi, che coxi negli anni passati. Beh, dal punto di vista sonoro io propongo Ballad of a Hand di Jean Lajoie, e mo te passo il link, anche il video è molto carino. E ciao Cox anche per me, io spero di tornare prima o poi, chissà. Grazie Fedra. E dunque Ballad of a Hand di Jean Lajoie. Did I do something wrong? Why's he treating me this way? All of a sudden he's washing me like 200 times a day. Why's he being so cold? Feels like our relationship changed. I can't remember the last time he let me touch his face. He won't even bite my nails anymore. Does he think I haven't noticed him using elbow instead of me to open doors? He doesn't even take me out anymore. And when he does, it's just for a quick trip to the grocery store. And then he washes me like a dirty hand he found on the street. I don't understand, is he ashamed of me? I just wanna go back to the way things used to

number 68. And in the back streets, that's our home from home. The painted walls are all we've ever known. 6, 8. The guns forever, that's our battleground. It is the flag that we fly so high. Boston, Massachusetts. Can I hear the crowd roar? Down in the subway, can I hear that whisper? Through all the rage and glory of the years, we never once thought of the fears for what we'd do. Oh, nothing lasts forever, it's all they seem to tell you when you're young. But I don't believe it. No, I don't believe it. Come on. Show me.